piaga Pallardo, e noi torniamo al tuo servizio. Padron, la sia una donna che alla vostra presenza chiede d'essere a me, ma inoltre le dirai che il paziente aspetta quell'ora.